Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata 185 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di medicina, di fisica, ma meglio ancora di biofisica. Cari ascoltatori, come sapete qui a Cacciafotone non siamo soliti parlare troppo spesso di medicina. In realtà in questa puntata non parleremo tanto di medicina, ma parleremo di un argomento un po' particolare, un'intersezione fra la medicina e la fisica, si chiama biofisica. Ne parleremo col professor Mirko Baruscotti, professore associato di fisiologia presso l'Università degli Studi di Milano e soprattutto primo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science, intitolato Deep Bradycardia and Air Block Caused by Inducible Cadence-Specific Knockout of the Pacemaker Channel Gene HCN4. Lo traduco in soldoni. In sostanza è stato individuato un gene particolare, l'HCN4, presente nel canale pacemaker del cuore e capace soprattutto, permettetemi la estrema semplificazione, di accendere e spegnere il cuore. Buongiorno Mirko. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'intervista. Mirko, con te analizzeremo appunto questo paper nel corso della trasmissione, quindi nelle 100 parole iniziali che introducono Caccia al Fotone ti chiederei di riassumere un pochino il contenuto di questo paper e poi lo andremo ad analizzare meglio nella seconda parte della trasmissione. A te la parola. Va bene, ci provo, vediamo se riesco a stare nelle 100 parole. Il concetto base del lavoro pubblicato è stata la possibilità di eliminare un gene che viene considerato il gene che conferisce al cuore la capacità di battere in modo spontaneo e autoritmico direttamente in un animale in vivo, in un topolino. Quindi questa metodica di ingegneria genetica ha permesso di prendere un topolino normalissimo e a un certo momento è stato possibile da parte nostra spegnere proprio fisicamente questo gene ed osservare che cosa succedeva al cuore quando il prodotto di questo gene, quindi la proteina pacemaker cardiaca, non era più funzionante. Questo è un po' il messaggio. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte ovviamente cercheremo di dare un pochino le coordinate, quindi daremo il significato delle parole chiave di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione tratteremo specificatamente il contenuto di questo paper e cercheremo di capire in che modo questa ricerca potrebbe cambiare letteralmente le vite dei malati di cuore. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. Thank you. ed è Astrid dei Chronic, la prima canzone che abbiamo scelto qui all'interno della 185esima puntata di Cacciafotone. Intanto, cari ascoltatori, vi do di nuovo il benvenuto sulle nostre frequenze e vi anticipo un pochino gli argomenti che andremo a trattare nel corso della trasmissione. Per chi ha seguito la prima parte si sarà accorto che stiamo parlando di un paper pubblicato qualche giorno fa sui Proceedings of the National Academy of Science, in cui si analizza la funzione di un gene particolare, l'HCN4, che sarebbe in grado, detta in termini molto molto semplici, di spegnere e di accendere il cuore. Ne stiamo parlando col professor Mirko Baruscotti, professore associato di fisiologia presso l'Università degli Studi di Milano. Ecco, Cacciafotone, come sapete, è strutturato in due parti fondamentali. La prima parte in cui proviamo a introdurre gli argomenti della trasmissione, mentre nella seconda parte in cui analizziamo il paper. E allora, come prima domanda, Mirko, ti devo chiedere, anche se sembra abbastanza banale come domanda, però dal punto di vista biofisico, che cos'è il cuore? Come funziona? Allora, il cuore è un muscolo che funziona come pompa. Ora, ha però una caratteristica essenziale, che a differenza di qualsiasi altro muscolo del corpo, il cuore è dotato di autoritmicità, cioè è un organo che anche in assenza di uno stimolo nervoso si contrae. Ora, prendiamo un muscolo qualsiasi, un muscolo della gamba, un muscolo del braccio, chiaramente sono in grado di contrarsi, ma affinché ciò avvenga è necessario che arrivi una, definiamola così in modo semplicistico, ma insomma tutto sommato adeguato, che arrivi una scossa elettrica dal sistema nervoso. Quindi quando arriva una scossa elettrica dal sistema nervoso, i muscoli della gamba, del braccio, si contraggono. Il cuore invece ha proprio questa proprietà, che è in grado da sé di generare la scossa elettrica, e questo lo rende autoritmico ed è, se vogliamo, anche il motivo principale per cui è possibile oggi fare dei trapianti di cuore. Perché se tu prendi il cuore da un donatore e lo metti in un ricevente, è proprio l'autoritmicità del cuore stesso che fa sì che il cuore continui a funzionare anche nel ricevente. Quindi l'autoritmicità è un punto essenziale. Da dove arriva questa autoritmicità cardiaca? Beh, arriva da una piccola zona che si chiama zona pacemaker, o in gergo magari un pochino più scientifico anatomico, nodo seno-atriale, che è nella parte alta dell'atrio destro del cuore. È una zona che è stata scoperta oramai più di un secolo fa, quindi è tanto che si sa che il cuore è un organo autoritmico e che è autoritmico in una piccola zona del cuore stesso. Ribadisco questo concetto che è importante. È vero che il cuore è autoritmico, ma l'autoritmicità viene generata, quindi questa scossa, tra virgolette, viene generata da un piccolo gruppo di cellule in un punto preciso dell'atrio destro. Mirko, scusa se ti interrompo, mi stai dicendo quindi che se non ci fosse la zona seno-atriale, e quindi in particolare le cellule della zona seno-atriale, il cuore smetterebbe di essere autoritmico? Assolutamente sì. Ovviamente concedetemi delle semplificazioni, insomma, che devono essere accettate per un tipo di discorso, insomma, di questo tipo di divulgativo. Diciamo che in prima battuta sì, se c'è un problema alla zona pacemaker, il cuore non batte più. E infatti, quando ci sono dei problemi alla zona pacemaker, spesso si interviene con l'ausilio di pacemaker elettronici, perché altrimenti il cuore non avrebbe un'adeguata autoritmicità. Mirko, uno degli argomenti di cui volevo parlare in questa prima parte della trasmissione sono i cosiddetti canali ionici. Ecco, secondo la biofisica, i canali ionici sono posizionati sulle membrane cellulari, e nelle cellule che risiedono nella zona seno-atriale, i canali ionici sarebbero responsabili del pulsare del cuore. Ma in che modo sarebbero responsabili? Che cosa accettano e che cosa rifiutano i canali ionici? Ritornando alla nostra piccola zona pacemaker, dobbiamo dire che questa zona è costituita da cellule che vengono appunto definite cellule pacemaker. Ora, l'attività elettrica delle cellule in generale è resa possibile, quindi sia le cellule nervose che muscolari qualsiasi e quindi anche cardiache, quindi anche della zona pacemaker, è resa possibile dal fatto che esistono delle proteine che sono fondamentalmente come dei piccoli buchi, dei piccoli cilindretti che si inseriscono sulla membrana esterna della cellula. Queste proteine vengono definite canali ionici. Sono state scoperte nella seconda metà del 1900 e quindi sono state abbondantemente studiate, soprattutto, come giustamente dicevi tu prima, essendo delle strutture che hanno una funzione elettrica, l'approccio fino a non molto tempo fa è sempre stato quello di tipo biofisico, quindi è stato una disciplina, quella dello studio dei canali ionici, che era molto di pertinenza dei fisici e poco o nulla dei medici fino a poco tempo fa. Ora, sono proprio queste proteine, come dicevamo, che sono sulla membrana della cellula, che permettono il passaggio selettivo di ioni. E quando dico ioni intendo quelle piccoli atomi, quelle piccole molecole di sodio, potassio e così via, che costituiscono insomma tutta la parte liquida del nostro organismo. Ora, il flusso, il fatto che degli ioni, che sono appunto carichi o positivamente o negativamente, possa entrare e uscire da una cellula, equivale esattamente al concetto di corrente che fluisce nei nostri circuiti elettrici di casa, quindi una corrente che va e viene, e a livello di cellula è proprio questo ingresso o uscita di corrente che scatena tutta una serie di risposte poi funzionali. I canali ionici sono, per la fisiologia delle cellule nervose muscolari, sono diciamo un punto centrale, che come dicevamo prima è sempre stato studiato dai fisici, solo che ultimamente c'è stato un grandissimo boom, diciamo, chiamiamola moda, anche se in realtà la parola forse non è proprio esatta, verso i canali ionici, perché si è scoperto che, come tutte le proteine, possono avere delle disfunzioni di origine genetica e che quindi oggi sempre di più molte patologie che fino a pochi anni fa non avevano una comprensione del meccanismo molecolare iniziano a essere, diciamo, legati a disfunzioni di canali ionici, tant'è che sta entrando sempre di più nella scena dell'ambito biomedico il concetto di canalopatie, cioè patologie legate ai canali ionici. Se vi state domandando, cari ascoltatori, come mai stiamo parlando di canali ionici, come mai stiamo parlando di cellule, come mai stiamo parlando di geni, come mai stiamo parlando di proteine, a queste domande vi potrete rispondere ascoltando la seconda parte di Cacciafotone, all'interno della quale parleremo specificatamente di questo paper pubblicato sui Proceedings e di cui è appunto il primo autore il professor Mirko Baruscotti. Quindi vi invito ad ascoltare la seconda parte di Cacciafotone, adesso musica e poi di nuovo in studio. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Winter came too soon. Autumn colored gray within the voice of God. Mystics types away. Romans up and gone. Confirm your darkness fears. Now everything is done and nothing left but tears. Loft away your sign. Drawn in everything is done. My naked wondering. I don't feel like what has happened. I don't feel like what will happen. I don't see like how it started. I don't see like Ed è Inside of Me il secondo pezzo musicale che abbiamo scelto all'interno di questa puntata di Cacciafotone, sempre del gruppo Chronique, che è il gruppo musicale, sempre musica Creative Commons come è nostro solito, che abbiamo scelto all'interno di questa puntata di Cacciafotone. Intanto benvenuti di nuovo a tutti, per tutti coloro che ci hanno ascoltato già nella prima parte della trasmissione, in cui abbiamo dato un pochino le indicazioni di base sugli argomenti che tratteremo in questa seconda parte, e per coloro che invece si fossero messi all'ascolto solo ora. In questa puntata stiamo parlando col professor Mirko Baruscotti, professore associato di fisiologia presso l'Università degli Studi di Milano. Ecco, col professor Baruscotti stiamo parlando di un paper pubblicato sui Proceedings qualche giorno fa, in cui si analizza un gene particolare, l'HCN4, e soprattutto un canale del cuore particolare che si chiama il canale pacemaker. Allora, a questo punto, prima di cominciare, una domanda che faccio ormai a tutti i ricercatori che intervengono all'interno di questa trasmissione. Questo è un paper di circa 6 paginette, però immagino che, come al solito, per scrivere 6 paginette ci sia voluto qualche annetto, e quindi quanto tempo ci è voluto per scriverlo? Hai detto bene, hai detto benissimo. Diciamo che il lavoro è cominciato circa 5 anni fa, con la prima impostazione a tavolino di che cosa volevamo fare. Sì, ci sono voluti circa 5 anni. Periodo lungo, lo so, però oramai la scienza non si fa più in 5 minuti. E quando effettivamente avete deciso di puntare la vostra ricerca su questo argomento? Sì, allora, il nostro laboratorio di ricerca è diretto dal professor Dario Di Francesco, che da sempre, quindi dagli anni 70, da quando lui ha cominciato la sua attività, si occupa di meccanismi di pacemaker cardiaco. È ad oggi la massima autorità mondiale nella determinazione molecolare del funzionamento autoritmico del cuore. Quindi lui da sempre ha fondato questa scuola a Milano, sulla quale ci siamo inseriti poi ovviamente in vari collaboratori. Il professore è ancora assolutamente attivo. Insomma, diciamo che la Milano dagli anni 70-80, io in particolare dal 1990, occhio e croce. Allora Mirko, entriamo un pochino nell'argomento del paper. Se questo paper fosse un film, questo film avrebbe un protagonista, e il protagonista si chiamerebbe HCN4, cioè un gene. In che modo questo gene è importante in quello che stiamo dicendo, e soprattutto è importante nel vostro paper e quindi nella vostra analisi? Sì, allora, il gene HCN4 è un gene che, come tutti i geni dell'organismo, è presente in tutte le cellule dell'organismo, ma ciò che importa non è tanto la presenza del gene quanto il suo prodotto, cioè la proteina. La proteina che viene codificata dal gene HCN4, se parliamo nel cuore, è espressa ed è presente solo proprio in quel piccolo gruppo di cellule che costituiscono la zona pacemaker. Quindi quando si definisce HCN4 si può intendere o il gene, o meglio ancora, da un punto di vista funzionale, la proteina. Questa proteina è proprio un canale ionico, e è proprio quel canale ionico che permette quel flusso di corrente che determina quella famosa scossa che dicevamo, che parte quindi dalle cellule del nodo del seno e si diffonde poi in tutto il cuore facendolo contrarre. Il nostro lavoro, in poche parole, dimostra che se tu rimuovi questa proteina, le cellule del pacemaker del cuore non sono più in grado di essere autoritmiche loro, e quindi di andare a stimolare tutto il resto del cuore. Mi stai dicendo che il gene, ma meglio ancora la proteina, è una specie di interruttore che fa on-off? Sì, possiamo anche definirlo come un interruttore che nel ciclo normale della vita di una persona, e quindi della funzionalità del suo cuore, quindi della vita delle proteine che costituiscono la zona pacemaker, si accende e si spegne circa 60-70 volte al minuto, ed è quello, è proprio la sua attività che determina la frequenza di contrazione cardiaca. Quindi Se questa proteina si apre 70 volte al minuto, il nostro cuore batterà 70 volte al minuto. Senti, nel canale pacemaker abbiamo molti geni che poi codificano per proteine. Come mai proprio questo gene è responsabile dell'autopulsazione del cuore e non altri? Diciamo questa premessa. Da un punto di vista storico, prima sono state scoperte le correnti. Si è scoperto che i muscoli, i nervi, sono caratterizzati da flussi di corrente. Questo è stato il punto numero uno. Ad ogni corrente che ha caratteristiche e proprietà diverse, sono stati associati dei nomi, per cui si parlava di correnti di potassio, correnti di sodio, correnti di calcio e così via. Ma non erano, diciamo, in questa fase iniziale della canalologia, non si erano ancora scoperte le proteine, quindi i canali ionici. Si poteva osservare l'effetto, il fenomeno, cioè la corrente. Con il clonaggio e l'identificazione delle proteine è diventato, diciamo, anche ambito del biologo, se vogliamo. Un passo importante che è stato fatto è stato quindi quello di, nel nostro ambito specifico, quello di associare quale proteina fosse responsabile della corrente pacemaker. Quando negli anni più recenti si è scoperto che questa corrente era determinata da un canale ionico e nello specifico da un gene barra proteina che si chiama HCN4, ovviamente è venuta l'idea di studiare che cosa succedeva alla funzionalità di un organismo se questa proteina veniva rimossa. Moltissime informazioni erano già disponibili sull'importanza della corrente pacemaker prima di questo lavoro, ma erano tutte informazioni ricavate fondamentalmente da studi in vitro sulle singole cellule, cioè si prendevano le cellule della zona pacemaker cardiaco, le si isolava e poi si studiava le proprietà di una singola cellula. Lavoro importantissimo che ha fornito una messe di dati scientifici impressionanti, ma che aveva il limite di studiare una cellula, e quindi quando ti trovavi di fronte a qualcuno, che medico o chi per esso, collega, che diceva sì, però estrapolare dei dati da una cellula all'organismo completo è molto difficile, se non impossibile, ovviamente dovevi fare un passo indietro e dire beh, sì, è vero. Allora le tecniche di ingegneria genetica hanno permesso di bypassare questo problema, soprattutto con una tecnica che si chiama quella dei topi knockout. Cosa vuol dire topi knockout? Topi knockout sono un modello sperimentale. Tu hai questi topolini che sono fondamentalmente dei topolini normalissimi fino a quando l'operatore, quindi lo sperimentatore, lo scienziato, decide di intervenire eliminando un gene specifico. Ora, cosa vuol dire quando dico sono topolini normalissimi? In verità devo precisare che sono topolini a cui è stato modificato il genoma, quindi è stato modificato il DNA, che però funzionano normalmente. Cioè è come se avessi inserito un interruttore nel genoma, nei geni di questi animali, e l'interruttore è spento. Tu però da fuori puoi accenderlo, e quando lo accendi sei in grado praticamente di distruggere, eliminare un gene. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato quello di prendere un topolino, modificarlo geneticamente, inserirgli questo, chiamiamolo così, interruttore tra virgolette, in modo che quando ritenevamo opportuno, mediante una semplice iniezione velocissima di 10 secondi, noi potevamo andare ad attivare questo interruttore ed eliminare il gene HCN4. Questa è la base, diciamo, del modello sperimentale utilizzato. Mi viene in mente anche che identificare un gene responsabile dell'accensione o spegnimento del ritmo cardiaco del cuore ci permetterebbe anche di creare delle cellule staminali fatte apposta da impiantare magari in una parte del cuore o nella zona pacemaker, proprio per poter ricreare e correggere, tra virgolette, un cuore malato. Assolutamente sì, questa è un'idea, diciamo, che è considerata talmente importante che è oggetto di sviluppo metodologico e tecnologico da parte di parecchi laboratori al mondo. E ovviamente ci stiamo lavorando anche noi, soprattutto il mio collega professor Barbuti. Cioè l'idea è, ad oggi, come dicevamo nell'introduzione, se ci sono dei problemi di ritmicità cardiaca, spesso si deve intervenire con un impianto di un pacemaker di tipo elettronico. Tuttavia presentano alcune piccole limitazioni, una ad esempio che essendo uno strumento elettronico, la sua interazione con le altre diciamo altri meccanismi di controllo dell'organismo, quali per esempio lo stato ormonale, la tensione, l'interazione tra una struttura elettronica e un componente biologica quale gli ormoni, in un pacemaker elettronico è assente. Allora l'idea qui era, ma perché non si può, partendo dalle cellule staminali, creare un piccolo gruppettino di cellule che abbia funzione pacemaker e utilizzare questo pacemaker, quindi definendolo pacemaker biologico, per sostituire il vero, il naturale pacemaker biologico, che è il nodo sinoatriale malato. Quindi eliminare il concetto di pacemaker elettronico sostituendolo dove possibile, quando possibile, in un futuro probabilmente molto in là, con appunto una sostituzione dall'elettronico al biologico. Allora, a questo punto penso che abbiamo detto praticamente tutto, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio, Mirko, ti farò quella che ormai abbiamo definito la domanda zainetto. A dopo. Grande Giove. Hello, who are you? I am a friend. Why don't you come to play with me? Walking down the ground, I'm hanging in my thoughts. I realize a horror trip which melted me inside. She came up to me, down to my feet by my way. My soul cries out anymore, my life is running out. Run, run, run, run, run away. E siamo nell'ultimo minuto di Caccia Fotone in questa 185esima puntata e siamo sempre in collegamento via Skype col professor Mirko Baruscotti, professore associato di fisiologia presso l'Università degli Studi di Milano. Con lui abbiamo provato a parlare di pacemaker channel, abbiamo parlato del gene HCN4 e l'ultima domanda, come classicamente facciamo qui a Caccia Fotone, è la domanda zainetto. E quindi Mirko, che cosa salveresti, che cosa metteresti di questa ricerca all'interno del tuo zainetto da ricercatore per portartela dietro per le prossime ricerche? Insomma, in che modo si arricchisce il tuo bagaglio culturale, o meglio, il tuo bagaglio scientifico? Allora, io vorrei che questa ricerca e tutte le ricerche di questo tipo servano per convincere tutti noi che il futuro della nostra salute deve passare da un'interazione tra il biologo e il medico, perché il biologo non può fare il medico, ma il medico oramai non può essere un buon medico se non si avvale delle competenze di biologia molecolare. Tu pensa solo, adesso non, abbiamo definito questa nuova parola che è canalopatie, capisci che le canalopatie fino a probabilmente per tantissimi medici ancora oggi non vogliono dire niente, cioè non hanno nemmeno il concetto della parola canalopatia. E invece questa interazione è importante, quindi noi speriamo sempre di più di poter sviluppare collaborazioni forti con la medicina, perché solo lavorando insieme si riesce ad andare avanti. Se ognuno rimane nel chiuso dei propri laboratori noi e dei propri ospedali loro, rispetto al resto del mondo saremo indietro. Questo spero che di portare nello zainetto. Mirko, a questo punto si conclude in questo modo la 185esima puntata di Caccia Fotone. Io saluto sia te sia tutti gli ascoltatori. L'appuntamento è come al solito la settimana prossima e l'augurio è il classico ormai da 6 anni. Buona scienza a tutti. Grazie Mirko. Grazie mille, salute a tutti. E con chi stai parlando? Dici a me?